Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori del 24, buongiorno, benvenuti a questo aperitivo natalizio, per così dire. Siamo al sabato 16 dicembre, auguri a chi si chiama Adelaide, Santa Adelaide, e naturalmente sono qui confortato dall'illuminante faro dell'intelligenza proattiva dei miei compari Conti della Belva. Carlo Alberto Carnevale Maffè. È collegato con noi Mario Seminerio, buongiorno a tutti. Eccoci qua, Mario Seminerio, con la sua voce distaccata e autorevole rispetto a noi che siamo. Ci tocca la parte di fare un po' più i cazzoni questo in studio. Ma io mi ci impegno e direi che ci riesco. Però Mario di solito ci dà una mano su questo. Sì, dai, sì, sai. Ma sempre presente quando si deve fare i cazzoni. Guarda. E naturalmente, siccome stiamo andando verso i giorni di Natale, siete tutti impegnatissimi nella vostra, nel vostro rito degli affetti familiari. Oggi le ultime ore per vedere, fino all'ultimo secondo, in realtà avrete ancora la prossima settimana, ma oggi grande concentrazione sugli acquisti per i regali eccetera eccetera. Ecco, mi raccomando, oggi è sabato, che fate il domani l'ultima spesa natalizia, esatto. Festiva, perché l'anno prossimo il governo decide di chiudere tutto. Si fa tutto solo nei giorni comandati, nei giorni comandati, quindi la mattina il giornale radio dell'emittente pubblica dovete sentire solo Rai, come ovvio vi dirà. Oggi potete andare a comprare improvvisamente a sorpresa lotteria, ci sono dei giorni di chiusura totale, chi ha deciso quel giorno di andare a comprare verrà punito e tassato di più, perché questa è l'idea con cui quanto a tassare su Amazon. Calpestiamo anche lì, eh. Allora, di che cosa parliamo oggi? Per vedere se volete intervenire, 800 24 00 24, 3492 38 666, ovviamente i messaggi nei quali scatenarvi per dire come ci amate, perché dovete sapere che noi oggi per primi faremo una lista di chi è stato buono e cattivo per i regali, esatto, di Natale, buoni, per i regali di cattivi, Natale, e quindi cattivi. Ai cattivi daremo dei pacchi di carbone. No, il carbone no, perché poi il ministro Calenda dice che è della lobby del carbone. Facciamo, che ne so io, un metro cubo di gas, va bene? Un metro cubo di gas. Oppure, russo, che so, qualche metro russo quadro. Russo diretto per voi. Poi se gli austriaci ci fa saltare tutto, qui è un casino. Meglio andare sull'energia solare. Ragazzi, non mi chiedete il metro cubo di Emiliano, quello non ve lo do. No, ecco, va bene. Quello non ve lo do. Allora, detto tutto questo, ecco, però ci daremo anche invece qualche bel regalino di Natale. E oggi comunque parleremo di tante cose, perché parleremo di quello che è venuto nelle banche in questa settimana, parleremo delle promozioni a MPS, parleremo delle promozioni alla Consob, si promuovono tutti e i pacchi di regalo arrivano come POS, quindi daremo un po' di carbone così equamente distribuito, per così dire. Ma però poi l'approfondimento dopo l'inizio della settimana, in cui riepiloghiamo che cosa avviene con Mario Seminerio, come sempre avremo una bella parte di trasmissione con noi Diego Piacentini, commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale, che si avvia tra pochi mesi a compiere il servizio civile che ha fatto straordinariamente per il nostro paese, lo sapete, stiamo parlando di un grande manager internazionale per anni e anni alla Apple, per anni e anni all'Amazon, quindi e con lui faremo il punto dove stiamo andando sull'agenda digitale, come è stata questa legislatura, perché la legislatura che va al termine cominciò con Caio che portò avanti per un po' la baracca e poi fino al governo Letta se ne andò, e fino a questi ultimi due anni, quindi vediamo un secondo con l'anagrafe digitale dei residenti, della popolazione residente, a che punto siamo, con lo speed quanti milioni siamo, e insomma un pochino... E c'è anche una piccola chicca su Gallarate, caro Oscar. Su Gallarate, esattamente. Qui ci si muove, nelle nebbie padane qualcosa si muove! Nelle nebbie padane qualcosa si muove. Detto questo, dopo la pausa invece con noi Alessio Argiolas, per vedere qual è la travata fiscale che vi siete beccati questa settimana, e vedrete che ce n'è anche questa settimana un bel esempio di come lo Stato ha pensato bene di rallegrarvi alcuni di voi, aggravandovi ovviamente il regime fiscale in questo paese, dove le tasse diminuiscono e però le entrate aumentano. Quindi con Alessio faremo il punto di questo, dopodiché andiamo al fare una specie di crestomazia, come si dice in greco, cioè una scelta, perché oggi è in corso conferenza nazionale degli stati generali, anzi dell'alternanza scuola-lavoro, e sono stati tra pochi minuti vengono aperti dal ministro Valerio Fedeli, e allora abbiamo scelto di tornare su questo argomento perché è fondamentale per noi. Vi ricordo che la Buona Scuola si ha raddoppiato il numero di ore per alternanza scuola-lavoro, innalzando da 200 per licei e 400 per l'istruzione tecnico-professionale. Noi vorremmo però che fosse fatta diversamente, fosse fatta in maniera davvero coinvolgendo più le imprese. Ci siamo molto preoccupati quest'anno perché le famiglie spesso hanno detto: no, ma io non mando i miei figli in questi piani di sfruttamento. E allora avremo con noi tre ospiti della CNA, gli artigiani, che sono una delle parti attive che li organizzi, sentiremo la scuola paritaria e sentiremo anche un rappresentante degli studenti che interviene oggi su questo tema, scuola lavoro. Allora, che cos'altro vuoi segnalare? Ma io volevo chiedere, per introdurre il mio commento su questa settimana, il contributo di un grande massone del 1700. Grazie. Ma no, massone, adesso tu cominci subito. Ma dai, ero un giovane genio, morto giovanissimo. Ascolta quest'aria fantastica. Un ladroncello. L'amore è un ladroncello. Un serpentello, continua. Pure un serpentello, caro Oscar. Che dire, così fan tutte, scriveva Lorenzo da Ponte e musicava magistralmente Wolfgang Amadeus Mozart. Non so, secondo me, posso dire, sono stati assolutamente anticipatori di un fenomeno che poi è così avvenuto recentemente, che qui... Cioè ti hanno rivelato come sono le donne? No. Io parlavo veramente di politica, istituzioni e autorità di controllo, caro Oscar. Perché qui scopriamo che i presidenti della Consob, capisci, che io sono cresciuto che con la Consob accendevo il cielo tutte le mattine insieme a Banca d'Italia, no? Le due grandi autorità che devono tutelare il risparmio, rigore. Sì. Per esempio, se la Consob è tipo Re Salomone, capisci? Vestito di tiare e deve ovviamente stare lontanissimo da qualsiasi contatto con la realtà, deve vivere in un ipruranio, in un'anacoreta intellettuale. Bene. E scopro che invece invita allegramente a cena i ministri e parla del destino e del nocumento. Non so neanche come si può dire nocumento, cioè il documento, il nocumento. Esatto. Dell'arte orafa aretina. Ma che mette in dubbio questa persona? E dice: no, io non parlo di banche col ministro, parlo del documento all'industria aretina dell'oreficeria. Ora, io non me la prendo con Maria Elena Boschi, perché diciamo l'interesse lì è chiaro, ma non mi è chiaro l'interesse del presidente della Consob, il quale deve fare, scusami, il mio di interesse, cioè non deve parlare con nessuno. Nessuno, caro Oscar. Quindi io non so come andrà a finire in politica, istituzione, ma il mio problema non è il ministro Boschi, è che io voglio difendere la Consob, voglio difendere l'inattaccabilità, il rigore e la inavvicinabilità della Consob. Non so tu cosa ne pensi. Io penso questo. Io, come vedi, sarò molto più immediato. Sarò molto più immediato. Tu metti Mozart. Io penso che l'amore è un ladroncello. Adesso questa è settimana, un serpentello. Questa tu settimana, sei un serpentone, questa, un pitonazzo. Questa settimana, ecco, questo è quello che ho visto avvenire. E questo è quello che ho visto avvenire. Perché il problema, caro ascoltatore, per noi qui non è la questione. La legge sul conflitto di interesse degli eletti, e anzi dei membri del governo, la legge Frattini, l'ha scritto ieri con un post riportato, ricapitolando, uno di coloro che scrivono sul grande blog di Mario Seminerio, fastidio.net. La legge, in realtà, come sai, caro Alberto, vigente per i membri del governo sul conflitto di interesse è sottilissima, capito? È come un'aria di Mozart. Impalpabile, bravo, proprio, cioè, trasparente. Quindi qui la violazione di legge, esatto, la violazione di legge, così fan tutti davvero in quel caso, la violazione di legge non c'è nel caso. Ci mancherebbe altro. C'è una serie di violazioni in serie di problemi di opportunità politica, da parte del ministro, secondo me, da parte del presidente della Consob, sono in buona compagnia, per così dire. Non so, Mario, come la pensi su questo argomento? No, io penso che il presidente uscente di Consob, essendo un docente di diritto ecclesiastico, sicuramente se Carlo Alberto cerca i templi e i sacerdoti, probabilmente l'ha trovato. Ecco. Vedo che hai colto la sottile ironia. Mica si capiva. Hai iniziato dicendo i grembiulini massoni. Ma ragazzi, volete Mozart? Ma mi riferivo a Mozart. Vogliamo andare tutti a casa qua, inizio trasmissione. Già vedo. Signor editore, scusi, sta entrando l'editore in studio. Tu non lo vedi? No. Il signor commendatore. Subspecie del signor commendatore del Don Giovanni, il famoso convitato di pietra. Ecco, allora A proposito di pietra, c'è un'altra pietra. No, aspetta, fai parlare Mario. Mario, ma visto che hai le tracce audio dei crash, sì, che riassumono un po' cosa è successo questa settimana in ambito di commissione d'inchiesta sulle banche, io volevo chiedere ai tecnici audio in regia se riescono a recuperare la traccia audio per sentire il rumore che fa la merda nel ventilatore. Ma ragazzi, è sabato mattina, non siamo in fascia protetta qui ancora. E comunque è un rumore brrr, quindi te lo posso fare, esatto, ecco, brrr, così, niente di più. Niente di più. Esattamente. Allora, fermiamoci qua e torniamo immediatamente con l'inizio della settimana, ma vedrete che sarà un continuum, soprattutto di cherry picking. In questo caso shit picking, però facciamo un po' di shit picking perché la settimana ne ha offerte parecchie di occasioni. Torniamo subito. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire. No, me la segni proprio, non vi preoccupare. Ed eccoci qua, tornati con i compagni dei conti della Belva in studio con me. Carlo Alberto. E collegato, appunto, Mario. E poi Renato arriva, l'ho visto vestito da Babbo Natale. Papà Natale arriva con fine. La cappuccetto rosso. Intanto qui con avete i capito che il primo pacco di carbone è assegnato al presidente della Consob, ma in buona compagnia, bisogna dire. Allora, Mario, da cosa vogliamo cominciare? La Consob, tra l'altro, ha fatto promozioni. Appunto, parliamo un attimo di questo. Abbiamo appreso. Ora, io devo farvi una confessione. Io questa notizia l'ho avuta giorni addietro da un anonimo che mi ha mandato questa informazione, però poiché io sono un ragazzino per bene, non ho potuto e voluto divulgarla sin quando non è divenuta di pubblico dominio, perché anche il sottoscritto ha le sue piccole fonti. Chiusa parentesi. La Consob ha realizzato la promozione di 4 dirigenti apicali nell'ambito di quelle che si chiamano, interessante questo, sessioni di avanzamento. Chi ha detto che in questo paese non si avanza? Ma no, assolutamente, abbiamo anche un hashtag, avanti. Perché erano rimaste ferme per 3 anni queste sessioni di avanzamento, i 4 dirigenti apicali promossi otterranno i benefici economici e di inquadramento retroattivi. 3 anni. Oh, finalmente qualcosa di retroattivo in questo paese. Ragazzi, qui la retroazione è una prassi consolidata. Non so, mi spiego? Non no, mi spiego. Non così sembra quasi che tu stia dicendo girati che ti inchiappetto. No, però, ma no, scusa, la retroazione. Adesso non... Allora, queste promozioni retroattive, Mario, ti sembrano come giusto il coronamento e il riconoscimento di un corrispettivo iniquamente negato prima, no? Ma può essere, però diciamo che non suona benissimo. Ora, io sono sempre favorevole a promuovere il merito e a remunerare le competenze. Però se tu resti fermo 3 anni e dopodiché probabilmente per qualche, come dire, garbuglio giuridico di quelli tipici nei rapporti di lavoro di diritto pubblico sei costretto ad inseguire retroattivamente, la cosa non mi quadra moltissimo. Però non ci hai ancora detto di chi stiamo parlando, Mario. Di chi stiamo parlando? Io, allora, diciamo questo, si parla di 4 dirigenti apicali di Consob. Il fatto che ci sia stata notiziabilità deriva dal fatto che probabilmente uno di questi 4 dirigenti apicali è responsabile della ricerca quantitativa Marcello Minenna, però per quanto mi riguarda questo non rileva, cioè per me la notiziabilità vera è la retroattività triennale. Dopodiché, se vogliamo discutere anche di Minenna, io con Minenna e su Minenna discuto delle sue proposte che mi paiono partire dal tetto anziché dalle fondamenta, ma io e Sandro Brusco attendiamo serenamente la sua replica alle nostre obiezioni di merito delle scorse settimane, quindi ha promesso che risponderà con la dovuta calma, ha precisato, quindi io sono una persona che sa attendere, contrariamente a quanto alcuni pensano. In materia di spread, era la questione. Esatto. In ma di spread. Questo dirigente Minenna, se non sbaglio, ha fatto il superassessore per qualche pomeriggio alla Giunta Raggi, o sbaglio? Proprio l'anno scorso. Sì, è proprio lui, è l'animatore della quindi, di una polemica. Ma adesso promuoviamo i dirigenti della Consob che si impegnano in politica. No, ma io mi domando se è la prassi corretta. È tenuto fermo tutti questi anni dal cattivone Vegas e alla fine tutti i salmi finiscono in gloria, diciamo, visto che abbiamo questo potere religioso stamattina. mattina. È l'animatore di una storica polemica sulla rimozione delle proiezioni quantitative nei documenti Consob, tra cui c'è stata una questione molto rilevante, insomma, tra lui e il presidente Vegas. Capisco, sì. E il presidente Vegas questa settimana ha lanciato un chiaro segnale politico con il suo intervento nella commissione, verso i partiti che riducono le questioni di cui si parla la commissione di indagine parlamentare alla questione Boschi. Io ieri ho tentato col professore Zugovesi per un'ora invece di occuparmi delle questioni ordinamentali invece che di questa, e però dall'altra parte lui contempera con un segnale politico in un'altra direzione, anche con questa cosa di Milena. Questo lo dico io, non vi voglio coinvolgere, ma insomma non ci è piaciuto. Del resto anche in MPS sono arrivate le promozioni, sì, poche ore prima, sì, sì, che arrivasse, sì, il tesoro, o no? Però allora pare che non pare, è così, perché è un comunicato di una sigla sindacale di ieri, 49 dirigenti, nuovi dirigenti interni alla banca, quindi non è un'immissione dall'esterno. Che dire qui, molti hanno commentato sui miei social dicendo ma il tesoro arriva tra alcuni giorni, tesori cari, cioè, tesori. Visto che Morelli e anche Falciai, parlandone da vivo, prima che si dimettesse, intendo dire, hanno la fiducia incondizionata di Piercarlo Padoan, io penso che anche questa tornata e infornata di nomine dirigenziali, anche se il Tesoro non ha preso il comando del CDA perché avverrà solo tra pochi giorni, era sostanzialmente d'accordo. Poi ci sarà anche altra risposta che vorrei dare. Questo è un aumento del costo del lavoro, vi prego, risparmiatevi la stronzata di dire costeranno uguale perché erano già dentro, non ci saranno benefici economici, non fate così, guardate, lo dico per la vostra dignità di commentatori dei social, dove dignità e commentatori dei social sono abbastanza ossimorici a volte, però questo è una eventualità, un'evenienza, evidentemente la banca ha bisogno di ricostituire le prime linee per affrontare un periodo non semplice. Ricordiamo che a breve la banca si esibirà in questa imponente deconsolidamento di 28 miliardi di sofferenze mediante cartolarizzazione, sarà la più grande cartolarizzazione di sofferenze in Europa. Dopodiché cosa succederà alla banca? Lo scopriremo solo vivendo, però ricordiamo che la banca sulla carta parte con una condizione di crediti deteriorati tra le più pulite d'Europa, sulla carta. Sì, sì, sulla carta è così. Quindi, se riesce, noi in quanto contribuenti potremo solo che esserne felici. Si è perso all'ultimo secondo Alessandro Falciai, il presidente che era ovviamente confermato dal Tesoro lunedì prossimo, però visto che si è beccato questa indagine a Savona per via di un cantiere che ha acquisito 3 anni fa, pare formalmente confermata l'ipotesi per cui debbano adesso procedere all'identificazione di un presidente nuovo. Quindi la notizia è uscita ieri, giornali come Repubblica oggi la danno per certo, che non sarà più lui il candidato. Però io volevo annunciarvi e chiedervi il commento su un'altra bella cosa che la settimana ha portato e che oggi alcuni quotidiani danno per certo, e cioè che è certo che per l'ILVA CDP, che pure faceva parte della cordata che aveva perso per l'aggiudicazione dell'ILVA e rispetto alla quale moltissimi politici, tra cui Mucchetti, hanno sempre protestato dicendo ma come, bisognava far vincere CDP. Le gare in Italia significa, tradotto, vuol dire fare vincere chi a tavolino si decide che sia meglio, e invece era finita la gara con l'aggiudicazione ad ArcelorMittal e il gruppo Marcegaglia. Ebbene, pare proprio che il governo, nel frattempo che si misurano gli effetti del decreto impugnativo del presidente Emiliano, grande scontro con Calenda questa settimana, nel frattempo però fa scrivere ai giornali che CDP entrerà a questo punto nella cordata ArcelorMittal. Voi capite, ma cosa le facciamo fare le gare in Italia, Carlo Alberto? Cioè, che senso ha? Facciamo la gara a chi manipola di più, cosa che ti dica? Senza parole. Cioè, il mercato qua è come dire, è una mera consultazione che facciamo al mercato, perché la politica decide quel cavolo che vuole lei, però, hai capito perfettamente. Scusate, io però vorrei dire che in questo giro di valzer, sì, il governo è stato aiutato dall'antitrust europeo. Sì. Perché è stato l'antitrust europeo che ha detto che la società che ha vinto la gara per Ilva aveva una composizione di compagine societaria tale per cui c'erano timori per l'antitrust a livello europeo, sì, e pertanto occorreva che una delle due vincitrici nella joint venture uscisse. E quindi questo è stato un bell'assist, diciamo, per però, di qui a dire esce il gruppo Marcegaglia o entra CDP che stava nell'altra cordata, e soprattutto significa lo stato, cioè non è proprio una cosa in cui essendo nell'altra gara che aveva perso. Ma comunque io immagino che invece io posso dire una cosa non economica, posso parlare del fatto che sono felice che questa settimana sia passata la legge per il biotestamento, perché sono state tre o quattro cosine belle di questa legislatura che invece voglio ricordare: la legge sulle unioni civili, la legge sul biotestamento. A me sembra che abbiamo fatto qualche passo indietro in economia, ma sul tema dei diritti civili forse qualche passettino in avanti, tra l'altro in maniera gli ascoltatori, devo segnalare anche io, Mario, sono preoccupato per la sua anima, per l'anima di il cardinale Carlo Alberto Carole Maffè non ha letto mica sono l'intervista di Ruini, dice che la legge porta all'eutanasia, cardinale, e lei è come membro del Sacro Collegio. Ma non è vero, c'è un biotestamento qui, cioè è un diritto di stabilire condizioni di fine vita, un diritto fondamentale, non ho capito cosa c'entra il cardinale Ruini. Cioè adesso sono d'accordo, il cardinale Ruini c'entra, può dire, difendono sempre il titolo di intervenire nel dibattito pubblico di coloro che sono convinti che noi non disponiamo della nostra anima e del nostro corpo. Che c'entra la fede e lo Stato? Sono due cose diverse, o sbaglio? No? Date a Cesare ciò che è di Cesare. Ma quando mai nella politica italiana? Ma dove l'ha vissuto? Scusa, nella vissuta della politica italiana è sempre stata un'impropria commistione. E comunque voglio ricordare e voglio salutare Marco Cappato che si è fatto, posso dire che comunque c'è il coraggio. Grazie Marco. Comunque fatto testimonianza, ti sei preso questa responsabilità e direi che grazie a nome di tutti gli italiani, io, almeno quelli che pensano laicamente, che tocchi a noi. Con applauso. E a proposito di questo, prima del torneo tra un minuto, cambio tono per dire, cari ascoltatori, che un abbraccio altrettanto forte e molto più preoccupato va da parte nostra a Marco Bentivogli, il segretario della FIMCISL, per il quale le autorità di pubblica sicurezza, le prefetture di Roma e Ancona hanno dovuto disporre la scorta di sicurezza per minaccia alla sua vita. Quando in un paese un riformista intemerato come lui per le battaglie che conduce, per la visione non antagonista ma riformista della trasformazione del mondo del lavoro e del sindacato, viene minacciato di morte e bisogna proteggerlo con i membri delle forze dell'ordine, vuol dire che si torna indietro verso un passato buio, verso un passato in cui la violenza che anima il dibattito pubblico nel nostro paese finisce per montare pazzi di tutti i tipi, violenti e minacciosi a quel punto concreto. Siccome ne sono morti troppi dei riformisti, basta, e un abbraccio a Marco Bentivogli. Torniamo tra poco. Ste, sei pronto per i weekend? Giulia, vorrei dire il weekend. Guarda che due giorni non bastano per scoprire l'Italia. Oh, addio divano, Stefano, preparati al peggio. Ma no, preparati al meglio. Paesaggi da togliere il fiato, borghi meravigliosi. E piatti tipici deliziosi. Mi hai convinto, Giulia, non vedo l'ora di partire. Ste, tu non vedi l'ora di mangiare. Radio 24 e Touring Club Italiano ti portano in alcuni tra i luoghi più belli e suggestivi del nostro paese. Passaggio in Italia. In onda in RadioTube il sabato dalle 16 su Radio 24. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ehi amico! Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Dai contrasti nascono nuove armonie. Rossi d'Asiago ha creato Culto, la grappa di Amarone invecchiata in barrique. Carattere e morbidezza duettano in perfetto equilibrio. Grappa Culto, l'armonia è nei contrasti. Il culto della grappa.it. Gli abbiamo dato tanto. Troppo. Tutto. Tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 550 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. Grefo Cert, il certificato rilasciato da Credit Reform, rafforza la tua posizione con clienti e fornitori. 800-425-325 o creditreform.it. Cerco un dolce senza lattosio. Freddi. Lo vorrei con meno di 100 calorie. Freddi. Voglio una merendina dal gusto diverso ogni giorno. Freddi, dolcetto Freddi, nei gusti di fragola, albicocca, cacao, ciliegia o ricoperta di glassa fondente. Edo, cosa regaliamo a papà per Natale? Una sciarpa. Gliel'abbiamo presa per il compleanno. Un dopo barba. Già fatto per la festa del papà. Delle pantofole? Natale 2015. Ce l'ho. La carta regalo Trenitalia, così parte per Capodanno con mamma e ci lascia casa libera. Questo Natale regala carta regalo Trenitalia per far viaggiare chi ami in tutta Italia. E fino al 6 gennaio, acquistando una carta da più di 100 euro, hai un buono sconto per te da 20 euro. Acquistala in agenzia, in biglietteria, nei principali supermercati e media store. Info e condizioni su trenitalia.com. Con AI per le imprese. Un saluto. Ecco la domanda di oggi. Le imprese possono consegnare i propri rifiuti come film plastici, cartoni e pallet di legno presso qualche centro convenzionato? Risponde Walter Facciotto, direttore generale CONAI. Sì, è possibile. I consorzi Comieco, Corepla e Rilegno, in collaborazione con CONAI, hanno individuato sul territorio nazionale una rete di piattaforme in grado di ricevere gratuitamente i rifiuti di imballaggio provenienti dalle imprese, in alternativa al servizio pubblico di raccolta o ad altre operazioni svolte dal mercato. Un'opportunità in più per le imprese industriali, artigianali, commerciali e dei servizi utilizzatrici di imballaggi per poter conferire i propri rifiuti di imballaggio in carta, plastica e legno senza oneri di smaltimento o recupero. Vai su radio24.it, entra nella sezione CONAI per le imprese e mandaci la tua domanda. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qua, tornati in studio. Carlo Alberto. E collegato? Mario. E Oscar Giannino qui, che vi saluto, vi ringrazio. Allora, caro Alberto, sì, abbiamo una notizia, sì, e abbiamo un altro tributo civile da rendere a un grande italiano che in questi anni si è messo a disposizione. Minchino, veramente, minchino. Perché, voglio dire, non è da tutti fare una cosa simile, cioè dare tempo al paese da cui si proviene e che poi si è illustrato grazie alle proprie doti professionali, però in gruppi strepitosi della nuova economia come Apple e Amazon. Stiamo parlando di Diego Piacentini. Diego Piacentini, commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale. Ah, che naturalmente c'è, ma non mi date mai, però io non viene qua mai aggiornata la scheda. Allora, grazie di essere con noi, Diego Piacentini. Buongiorno. Allora, la notizia da cui partiamo, caro Alberto? È una piccola notizia, perché vogliamo partire dal particolare e andare sul generale. Senti, dico, il tuo ufficio ci ha informato che è successo qualcosa a Gallarate. E cioè è successo che per la prima volta, che mi ricordo io, un comune intelligentemente, un bravo sindaco, un giovane sindaco ingegnere, ha capito che deve toccare i cittadini sui soldi se vuole così favorire l'adozione del digitale, e avendo cambiato i prezzi per il pagamento della TARI ha ottenuto che, poiché c'è uno sconto per chi paga col digitale, quindi c'è un aggravio per chi paga con l'analogico, la gente ha imparato a pagare col digitale e lui ha liberato forze lavoro, ha liberato personale che è stato trasferito ad altre attività. Quindi il digitale per la prima volta dimostra che può funzionare un meccanismo in cui risparmiano i cittadini e la pubblica amministrazione, invece che licenziare, riutilizza le persone. E allora la domanda all'amico Diego Piacentini bocconiano: ma allora, per l'innovazione reale dei servizi della pubblica amministrazione, è meglio John Maynard Keynes della spesa pubblica, spendiamo nell'hardware, oppure il neo premio Nobel Richard Thaler, che ci spiega che forse è meglio il nudge, no? La spinta gentile, l'incentivo economico a scegliere il digitale perché conviene. Che cosa mi commenti, Diego, su questa vicenda di Gallarate? Allora, innanzitutto la risposta, dovendo scegliere tra un approccio binario, è nudging tutta la vita. Oh. Questo è che traduco ai nostri ascoltatori: leggete e fate attenzione di Thaler, non leggete il troppe volte citato Keynes. No, questo, però, vabbè, leggete, lo dico entrambi. Io, lo so. Leggete entrambi, che dico, va bene, però quello che spiega Diego è che l'incentivo gentile, intelligente, garbato, guarda caso che va a toccare i prezzi, è un segnale importante e aiuta la gente a capire più delle grandi campagne politiche. Elaboriamo su questo punto e raccontaci che è successo a Gallarate. Facciamo qualche esempio. Ovviamente ci sono tanti toni di grigio alla risposta di tutta la vita. Comunque partiamo da Gallarate. Gallarate sostanzialmente ha deciso di dare un incentivo per il digitale in generale. Uno, 5 euro se ti iscrivi al fascicolo digitale del comune, dove puoi ricevere tutti i servizi. Due, una volta che sei iscritto, se paghi con la piattaforma di pagamenti che stiamo valorizzando, che si chiama PagoPA, ottiene l'altro 5% di sconto sulla TARI. Quali sono le condizioni necessarie? Ovviamente una tecnologia che funzioni, perché se fai lo sconto su una tecnologia che non funziona, poi ovviamente l'obiettivo non viene raggiunto. È quello per quello che dicevo, ci servono dei toni di grigio per spiegarlo. Nagi funziona se il servizio funziona e se ci sono le persone competenti che lo fanno funzionare. Il nudging però ha prodotto anche un'altra cosa importante, cioè la riallocazione del personale. Siccome qui gira la voce da tanti anni che ecco il digitale nella PA non funziona mai perché distrugge posti di lavoro e quindi la PA si mette di traverso, a me risulta che qui a Gallarate invece ha fatto il contrario. Hanno usato il digitale per liberare risorse, mica per licenziarle, e per fare loro fare attività più alto valore aggiunto, per esempio la lotta all'evasione. Anche questo è successo a Gallarate? Sì, questo è stato molto interessante, nel senso sono passati da controllare manualmente gli incassi a portare le due persone che si occupavano di incassi a occuparsi di controllo dei pagamenti dei cittadini che non pagano, quindi da un'attività a non valore aggiunto a un'attività a valore aggiunto. Il discorso della distruzione dei posti di lavoro funzionerebbe parzialmente in una situazione di massima efficienza, cioè tutto già funziona in maniera talmente efficiente che la tecnologia rimpiazza attività. Siccome questa massima efficienza, soprattutto nella macchina pubblica, non esiste, quindi l'opportunità di passare da lavoro di attività non a valore aggiunto, poco produttive, ad attività più a valore aggiunto e più produttive, è elevatissimo. Ecco, speriamo che l'abbiano capito la politica, il sindacato e anche i cittadini, che il digitale aiuta a riallocare risorse da attività meno produttive a quelle più produttive. Però a questo punto dobbiamo generalizzare e chiederti un bilancio di questi due anni di lavoro. Prima Oscar parlava del tuo grande servizio civile. Però io devo anche avere un tono naturalmente un po' meno, cioè, parliamoci chiaro, noi abbiamo un mucchio di ascoltatori che quando torniamo su questi temi, Piacentini, da anni ovviamente su Radio 24, si figuri se noi non ci battiamo per il digitale, e uno come me, liberista e mercatista, vorrebbe una pubblica amministrazione che lo vivesse come la grande occasione per abbattere i costi, allocare le risorse con più efficienza, dare servizi pubblici con trasparenza e immediatezza. Però poi le obiezioni che mi vengono, dico: Giannino, per favore, e piantatela, sono passati altri, è passata un'altra legislatura, Caio, Piacentini, grandissimi nomi, poi ogni volta la domanda è: Giannino, scusa, quanti sono i comuni che appartengono, che oramai fanno parte integrante e offrono i servizi dell'anagrafe nazionale per le persone residenti digitali? E io gli devo dire: ah, siamo arrivati a 27, e la gente dice: ecco, allora non ce ne parlate più. Oppure faccio un altro esempio, la SPID siamo arrivati credo a più di 2 milioni adesso, superato i 2 milioni esattamente settimana scorsa. Che, e quindi quella è una cosa e cui noi continuiamo a dire è un passo avanti inesorabilmente sulla strada del fatto che rende possibile a quel punto fare a 360 gradi tutto per digitale. Però io sono sincero, le credo di tenere presente che molti di coloro che ci ascoltano dicono: fuffa, perché lo Stato annuncia, fa commissioni, ha fatto l'Agenzia Nazionale per il Digitale, però poi i passi che compie, quelli concreti, sono di una lentezza esasperante. Ecco, purtroppo io devo chiedere di tenere conto anche di questo mood che nei nostri ascoltatori esiste. Lei che ci dice? Esiste ed è totalmente comprensibile. Allora, mi sembra qua ci siano almeno tre domande in questi vostri interventi. Numero uno, io sono a metà dei miei 2 anni, quindi ho in verità valicato da poco, siamo a 13 mesi. Quello che secondo me è fondamentale, che io e il team che lavora con me stanno facendo, è un'attuazione, non è solamente di governance, ma anche di gestione dei progetti. Adesso io ho circa 26-27 persone, di cui almeno una ventina, anzi un po' di più, 22, sono esperti di tecnologia, esperti di processi, esperti di user experience. Questo mi differenzierebbe un po' dall'attività del consulente. Quando Matteo Renzi mi chiamò, gli spiegai: sì, va bene, ma non voglio fare il solito consulente di governo, perché sennò gli strumenti per attivarti e per controllare certe attività non sei molto produttivo. Parliamo dell'anagrafe nazionale, che è esattamente quello che avete appena descritto. Anagrafe nazionale che esiste per legge da non so quanto, secondo diversi anni. Quando siamo arrivati c'era solamente un mitico comune, una provincia di Ravenna, che si chiama Bagno Cavallo, mitico, dai. Mitico. Infatti lui, Bagno Cavallo, noi abbiamo la fotografia della piazza del comune sul sfondo della maggior parte delle nostre, le nostre presentazioni sulla istituzionale che abbiamo il Colosseo nella presentazione, nella slide iniziale, e il bagno a cavallo in quella di ANAREF nazionale. Quindi ci siamo, io ho partecipato a un incontro iniziale tra il Ministero dell'Interno e Soggei, che si scambiavano cazzotti ovviamente figurati su è colpa tua, è colpa mia. Ho cercato di capire qual era la problematica, era sostanzialmente sia di carattere tecnologico che di carattere operativo. La sto facendo molto breve, ci sono molti molti mesi per arrivare alla conclusione che sto arrivando. A questo partì ad ottobre dell'anno scorso, abbiamo sostanzialmente creato un program office che è un team di due persone, però vi assicuro che con poche persone competenti si può molto. Ci siamo istituzionalizzati tra Ministero degli Interni e Soggei e abbiamo fatto delle attività operative. Cosa sono le attività operative che abbiamo fatto? Uno, ovviamente studiare e capire come era composto il programma, quali erano le attività tecnologiche da farsi. Due, ne abbiamo creato tre cose. Una, un'area di test. No, quattro anzi. Una, la documentazione. C'era NPR, non c'era documentazione. I comuni non sapevano come farlo. Due, un'area di test. I comuni si chiedeva di entrare in questo mito della web app. Cioè la web app è scarichi un'app, funziona tutto. Era una specie di sogno bagnato da quel punto di vista. Abbiamo creato un'area di test, quindi i comuni fanno un test prima di entrare in produzione. Abbiamo creato un ticketing system, ovvero sia, se c'è qualcosa che non funziona, non scrive una PEC univoca e dopo qualche giorno qualcuno forse ti risponde, ma creiamo un'area dove i bug e le domande vengono esposte pubblicamente, quindi tutti le vedono, anche perché ovviamente il bug non è solamente per un comune, in genere per tutti, anzi poi i comuni si rispondono tra di loro. E quarta cosa, che è complementare, una cosa che si chiama SDK, che è il Software Development Kit, che è sostanzialmente la possibilità di sviluppare software di supporto, aggiuntivi. Queste quattro attività più un'attività forte di vendita, proprio quantità commerciale, di andare a spiegare questo famoso nudging ai comuni, perché dovevano farlo e come dovevano farlo e quali sono i benefici per loro e per i cittadini, ci ha portato, se voi andate sul nostro sito, noi abbiamo adesso da poche settimane introdotto una dashboard sui dati in tempo reale di improvement delle quattro, di miglioramento delle quattro. E dobbiamo ritradurre, perché Diego si sarà venuto in Italia ma è rimasto a Seattle come mentalità. Dashboard, davvero cruscotto. Da improvement a miglioramento. Dashboard è un cruscotto. Comunque ci sono i dati di quello che stiamo facendo, chiaramente bisogna esporli. Ti assicuro anche la fatica per andare alla fonte dei dati ed esporvi. Però scusi, piacentini, adesso io siccome le voglio bene, le post-credit non ci conosciamo, io le voglio bene, quando ho preso la notizia noi abbiamo fatto i salti come se avessimo le molle sotto le scarpe. Tipo comprare Messi, sì, capisci? Sì, esatto. Tipo il Milan che compra Messi. Perché io, caro Alberto, Mario, partiamo... esageriamo. A una squadra, lo so, lei dice non esageriamo, però noi viviamo... Cristiano Ronaldo. Lei deve capire però, noi viviamo la nostra italianità in una maniera così minoritaria che quando avvengono delle cose di questo tipo... ci sentiamo come se avesse vinto la nazionale di calcio che interessa a tutti gli altri. Che vuole fare? Ognuno ha le sue malattie. L'anno della non qualificazione dei mondiali non è una bella affermazione. Comunque, ma non ci posso fare niente. Mentre invece, però le volevo dire, aspetti, che lei è costretto a dire che è uno straordinario avanzamento pubblicare il cruscotto sul sito. Lei capisce che per chi è avvertito della faccenda gli dice, Piacentini mi sta confermando esattamente che siamo al paradosso di Achille e della tartaruga. Perché cioè noi ce l'abbiamo Achille, eccolo lì, sta parlando. Però Cappero ha pubblicato il dashboard degli avanzamenti. Sì, però voglio dire, chiudo e poi rispondo anche a questa domanda. Chiudo dicendo, da tre mesi a questa parte abbiamo 28 la settimana scorsa, 31 ad oggi, 40 entro la fine dell'anno. Il comune più grosso che è subentrato tre giorni fa è Modena, quindi stiamo cominciando a toccare anche comuni di rilievo. Ci sono circa 1000 comuni in fase di presubentro, quello vuol dire fase di presubentro, che stanno lavorando sulla bonifica dei dati e stanno utilizzando quell'area di test di cui le parlavo. Siamo solamente ad oggi a 1 milione di popolazione, si spera di arrivare a 6 milioni tra qualche mese perché sta entrando qualche città grossa, siamo ancora al 10%. Questo comunque, teniamoci conto che anche in un'azienda delle dimensioni di quelle per cui ho lavorato, di tante altre dimensioni, è comunque un processo complesso. No, beh, certo, cioè, questo non c'è dubbio. 70 milioni di schede dati, semplifico, che sono tutte poste su software non compatibili tra di loro, gestiti da fornitori di software completamente diversi. Ci sono circa 40-45 le software house che vendono servizi tecnologici ai comuni, quindi ci dobbiamo interfacciare anche con queste. È un processo di magnitudine enorme. Però bisogna trattarlo come tale, quindi con la complessità di una questione. Infatti voglio dire, noi abbiamo due persone dedicate più un paio di persone mezzo dedicate, poi Sogei ovviamente ci sta venendo dietro, il Ministero degli Interni sta gestendo la fase operativa. Settimana scorsa con Minniti, che ha capito perfettamente l'importanza di questo progetto, se ne è andato a spiegarglielo, ha convocato tutti i prefetti dei capoluoghi di provincia per fare altro nudging, magari un po' più forte di quello che... Ecco, lì più che il nudging, forse ci vorrebbe qualche misura un po' più forte del nudging sui prefetti del ministro, però... Comunque, però, torno a dire, il nudging non sarebbe funzionato, non avrebbe funzionato se non avessimo creato tutte queste, adesso le chiamiamo procedure, per semplificare, o comunque questo valore aggiunto che abbiamo creato. Manca totalmente, e torno a dire, criticare il sistema Italia è di una facilità incredibile. Io sono venuto invitato più o meno, ho fatto il calcolo, sono stato invitato da quando sono in Italia a 400 convegni. Non è un numero, non è un iperbole. Ci crediamo. Dove tutti ci dicono le stesse cose che mi state dicendo voi. Che non funziona, che la burocrazia... Senta Piacentini, le rispondo un po' fuori dai denti. Sa perché? Perché io sopravvivo a quelli che mi vogliono mandare a casa perché dicono che è critico. Ringrazi. Perché finché ci sarà qualcuno che in Italia evidenzia ciò che non funziona e non si piega al fatto che bisogna dire che tutto va bene, c'è ancora la possibilità che quelli come lei vengano. Sono brutale perché la sua obiezione è, per quello che mi riguarda, inaccettabile. Un po' di pausa e torniamo. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Ed eccoci qui in studio, tornati con i compagni dei Conti della Belva e con noi Diego Piacentini, il commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale. Notizia, fammi dire una Carlo cosa Alberto. Proprio a supporto di quello che diceva Diego, ma per rinforzare il concetto. C'è un ascoltatore da Giovanni da Bergamo che ci scrive: in Lombardia chi paga il bollo auto online per 3 anni ha uno sconto del 10%. Virgolette, se ci date l'incentivo noi, poveri mortali, lo utilizziamo. È un po' una conferma di quello che dicevamo prima, forse toccare gli italiani sugli incentivi e sui soldi è più efficace che fare le prediche nei convegni, vero Diego? Certo, aggiungo il dettaglio di prima. Incentivo, nudging, come avete detto voi, e cose che funzionano. Non si può incentivare qualcuno con dei soldi se poi il servizio che gli offri è comunque complicato, o non ha un supporto giusto o non funziona bene. Però se devi mettere in priorità gli ostacoli che hai dovuto affrontare in questi 13 mesi, ostacoli tecnologici prima, ostacoli economici oppure ostacoli culturali e organizzativi, Diego? La risposta sarebbe sì. Detto questo, secondo me il problema principale sono la mancanza di competenze. Cioè proprio la mancanza di competenze, ma non solamente tecnologiche, competenze anche di processi, cioè il concetto di project management. Talmente non esiste o comunque molto molto raro. Sa che questo punto è un punto che in quella settimana noi abbiamo ricevuto moltissime lettere ascoltatori proprio su questo, perché è uscita la notizia che la PA, tra le possibilità che si è dato con i nuovi contratti e con gli stanziamenti aggiuntivi per i nuovi contratti dei dipendenti pubblici, c'è quello del reclutamento di dirigenti con competenze specifiche esattamente sul digitale e l'informatizzazione dei servizi. E i nostri ascoltatori hanno detto: ma come, nessuno altro, eccetera eccetera. Lei invece ci dice: guardate, fidatevi, a me è toccato proprio di toccarlo con mano, ve lo posso dire che c'è mancanza di competenza su questo. E te lo conferma anche questo ascoltatore. Lavoro con la PA locale, i freni più grossi alla digitalizzazione arrivano dagli uffici informatici interni perché composti da gente poco preparata, quindi stanno confermando questa strada anche, sì, gli ascoltatori. Poco preparata o assunta negli anni metà anni 90, quando di fatto l'Italia aveva investito tanto in tecnologia. Certo, ma con il blocco delle assunzioni non si sono mai ritrovati. Esattamente, c'è stato il problema del turnover, ha colpito esattamente, per certi versi è comprensibile, cari ascoltatori, quindi non è una palla questa che abbiamo in settimana diffuso. Come ovvio, il blocco per più anni di turnover sono poi i settori, ma anche i software, le architetture di sistema, cioè le cose tecniche, quelle evolvono e la gente, non c'è gente dentro che lo sa. Su questo, visto che ci è stata la parola architettura di sistema, vorrei fare un commento. Uno dei grossi tanti problemi, uno dei grossi problemi è anche che c'è questa tendenza a scrivere le regole tecniche ANPR, di SPID, di tutte le cose che stanno facendo, nelle leggi primarie o nei decreti. Bravissimo. Che è una ovvia follia. Esatto. Perché magari la scrivi giusta la prima volta, e non sempre, poi dopo 2 anni è già cambiato. Quello che abbiamo fatto nel codice per l'amministrazione digitale, che è stato aggiornato proprio in questi giorni, la fase conclusiva, è spostare il concetto da regola tecnica a linee guida. Quindi sostanzialmente non più le regole tecniche nelle norme, ma scrivere nella norma quello che si deve fare, quindi si deve costruire un'anagrafe nazionale e scrivere come si farlo, come si deve fare in una linea guida. E chiaramente poi c'è il problema che chi scrive le linee guida deve essere competente. Posso chiedere un'opinione? Io su questo la penso come Alfonso Fuggetta, io rinvio chi volesse approfondire, è uscito un bel post che anche lui riepiloga e pone delle domande, insomma, idealmente a Piacentini, al punto. L'ho letto. Ecco, Alfonso Fuggetta, di Politecnico del Milano, cioè Fred è un amico comune. E Alfonso dice: certo, è un po' un paradosso che questa legislatura finisca addirittura dopo Caio che ha cominciato, un periodo intermedio un po' incerto nell'agenda digitale, poi l'arrivo di Piacentini che ha ripreso in mano questi progetti, esattamente quelli di cui abbiamo parlato adesso, cioè l'anagrafe, lo SPID e così via. Cioè, è un po' un paradosso, scrive Alfonso, che finisca questa legislatura con una politica che attacca a testa bassa il web, le imprese digitali, rischiamo di intervenire con imposizioni di cui proprio ieri i giornali hanno dato ragione a quelli come Carlo Alberto, come Mario Seminiero, che fin dall'inizio hanno detto: guardate, finiranno per andarci in mezzo le imprese digitali italiane. E questa settimana hanno iniziato a capire che è così. Perché non capisce, secondo lei? In questo c'è un ritardo vero della politica nel capire ancora l'impresa digitale, voglio dire, secondo lei, Piacentini? Sì, ma questo non è solamente una particolarità della cosa pubblica italiana, è proprio un discorso generale. La trasformazione digitale viene spesso vista come i sistemi informativi, qualche cosa a parte, e non come il grosso processo di cambiamento che deve comunque trasformare la vita. Grazie Diego, rimani grazie con noi oppure torna a Seattle. Sono stato ruvido, ma sono suo grazie. Fan. Grazie a RFID, Barcode, Beacon e Voice, le aziende migliorano la visibilità nella supply chain. Multimac è partner per l'identificazione e l'acquisizione automatica dei dati. Consulta multimac.it o chiama l'800-593-293. A Natale siamo tutti più buoni. Monge però è buono tutto l'anno. Monge, le sciatte Special Dog sono alimenti genuini, senza coloranti e conservanti. Bocconi cotti al forno, patè cremosi e crocchette con carne fresca. Auguri da Monge a tutti gli ascoltatori e ai loro amici a quattro zampe. Il Natale è da Euronics con il sottocosto. Fino al 24 dicembre tutto il meglio della tecnologia con sconti imperdibili. E in più hai il vantaggio di pagare in 10 o 20 rate a tasso zero. Euronics ti ascolta, davvero. Tane Tag Zero, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Tutto buonissimo. Sì. Che c'è? No, tutto perfetto, è che... È che? Magari ci hai pensato anche tu. Cosa? Sai, quando due sanno quello che vogliono... Sì? Perché aspettare? Ma... Silvia, vuoi... Sì? Cameriere? Desidera. Può portarcene altri due assaggi. Quando si parla di parmigiano reggiano, si parla d'amore. Per gli stessi ingredienti da 1000 anni, per un formaggio senza lattosio e senza conservanti, da sempre. Parmigiano reggiano, quello vero, è uno solo. Ascolta me, il tuo pensiero positivo. Quello del bicchiere mezzo pieno, sì, lui. Quello che se ti dice che troverai parcheggio sotto casa, lo troverai. Oggi ti dico, scegli online un'offerta Eni Gas e Luce. C'è un anno in regalo da vincere ogni giorno. Un anno di gas o luce, mica robetta. Scordavo, subito tu ho un buono da 50 euro spendibile sugli store di Eni Gas e Luce con un ordine minimo di 55 euro. Concorso misto valido fino al 14 gennaio 2018. Montepremi 245.000 euro. Regolamento su enigasselluce.com. Ti potrei parlare di spazio, raccontarti di uno stile unico al mondo e solleticare il tuo ego con parole che spiegano come la potenza non tema alcun terreno, alcuna condizione. Potrei, ma a volte basta così poco per dire tutto. Maserati Levante, The Maserati of SUVs, da 74.135 euro. Scoprila su maserati.it. Senza la piccola impresa, all'Italia manca una nota. Una nota di creatività, di passione, di innovazione. Una nota di sapere artigiano. Da sempre la piccola impresa fa parte del panorama italiano. Da sempre Confartigianato la rappresenta. Confartigianato, ritratto di impresa.

Ma mi sembra, come dire, vagamente demenziale. È vero che farebbe 600 milioni di gettito con il quale dissetare il popolo assetato. Però, cioè, diciamo, il problema è che, diciamo, Boccia è un alimentatore di ciò che al MEF vogliono davvero. Mucchetti fa molto più politica demagogica. Sono un po' brutale, Massimo, perché hai preso questa abitudine, se posso dirti, di dire che chi la pensa diversamente da te è pagato dalle multinazionali. Massimo, sono molto colpito, perché ci conosciamo da tanti anni. L'IBL non è pagato dalle multinazionali, e quindi questo argomento è una clave. Stai diventando un demagogo. Capita quando si fa politica. E ti rispondo pan per focaccia, perché ci hai infamato in più occasioni. Cioè, l'idea di essere al soldo di è una cosa meschina, caro Mucchetti, che non ti appartiene, e sai che abbiamo rapporti di amicizia e stima da tanti anni. Non ti appartiene, continua pure, stai evidentemente diventando un politico a tutti gli effetti. Scusate se sono brutale, però l'idea che di sentirsi dire da uno come Massimo Mucchetti, direttore del Corriere, eccetera, eccetera, che sei uno che ha una slot machine, ripeti le cose perché ti pagano, è una roba veramente da quarto ordine, se posso dirvi con una certa brutalità quello che penso. Comunque, noi siamo qui per parlare di tasse, non solo di quelle sul digitale, perché abbiamo con noi il nostro amico Alessio Argiolas. Come stai, Alessio? Sto benissimo, Oscar, grazie. Un caro saluto a te, compari ascoltatori. Sì, oggi, strano ma vero, in Sardegna c'è solo un po' di lupo. Per quello. È strano ma vero che in Sardegna c'è il sole. Adesso, scusami, facci capire. No, perché siamo meteoropatici, quindi sto bene nonostante ci siano le nubi, capito? Quindi il sardo, se vede il cielo coperto, diventa... Allora, si incupisce, è quasi come un accertamento dell'Agenzia delle Entrate, la nuvola sarda. Questa settimana è cominciata con i giornali che hanno scoperto la circolare della Guardia di Finanza, io in più occasioni ne ho parlato ai nostri ascoltatori, nella quale, a proposito di digitale, cari caro Alberto e caro Mario Seminerio, la circolare, dopo tante chiacchiere sul fisco amico, dà istruzioni alla Guardia di Finanza Territoriale per dire: voi dovete forzarle le parole d'ordine, le password di tutti coloro che sono sul digitale, le dovete prendere in cloud, le dovete prendere nei dischi non formattati, le dovete prendere tra familiari, parenti, amici, amanti. Il vostro compito è rubare, il vostro compito è non rispettare la Costituzione sulla tutela della privacy della corrispondenza, il vostro compito è entrate. Ecco, una circolare della Guardia di Finanza, caro Carlo Alberto, che mi ha fatto molto riflettere, sai? Sì, è difficile far rispettare lo Stato di diritto anche su questi semplici principi. Effettivamente violare, ti ricordo la battaglia l'anno scorso, addirittura sul terrorismo, no? Apple e il governo americano, rispetto al fatto che la violazione dei diritti... In Italia infatti tutti tifavano per il governo americano e nessuno difendeva Apple. Io invece tifavo per la mela proibita, non so, Corrado, cosa dici? Allora, io però non ti volevo, Alessio, deviare su questo tema. Però la settimana è cominciata con questa bella circolare. Cari sostenitori del fisco amico, sì, domani, buon intersecchio. Però non è solo questa la cosa. Di che qualcos'altro vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori che è nella pipeline della legislazione? Il disegno di legge di bilancio del 2018 prosegue il suo iter alla Camera dei Deputati, dove però auspichiamo vengano portate le minime modifiche di equità fiscale. Purtroppo il Senato ha bocciato un emendamento volto a colmare una dimenticanza normativa a danno di oltre 2 milioni di microimprese. 2 milioni di microimprese. Inerente l'istituzione del nuovo regime ibrido della contabilità semplificata per cassa, quella inserita dalla legge di bilancio dello scorso anno. Già. Le imprese, precisiamo, non hanno scelto il nuovo regime automatico, che tecnicamente è detto naturale, che venne spacciato come una semplificazione per le imprese. Ma in realtà è stato fortemente voluto dal MEF, il nostro caro Ministero dell'Economia e delle Finanze, come strumento di contrasto all'evasione fiscale, perché favorisce i controlli. Già. Alle piccole imprese, parliamo proprio di microimprese, attenzione, sono stati scaricati anche, oltre a maggiori costi, i problemi del riporto delle perdite e delle rimanenze finali di merci, lavori in corso ed eventualmente titoli. La soluzione è stata rinviata di un anno, appunto dalla scorsa legge di bilancio, perché richiedeva una copertura finanziaria sempre lesinata alle partite IVA. Quindi, nonostante si siano accorti, perché gli è stato evidenziato nelle colonne del Sole da Tosoni, la soluzione non poteva essere fornita in via amministrativa, bensì era necessario fornirla appunto con una legge finanziaria. Nella manovrina non l'hanno inserita, adesso era l'ultimo treno per poterlo fare. Lo inseriscono? Come, scusami? E lo inseriscono? No, perché l'hanno bocciato l'emendamento, esatto. Ma adesso stiamo cercando di rinfilarcelo in, scusate il termine, nella Camera. Quindi ci sono degli emendamenti per cercare di farlo passare alla Camera e poi rinviarlo nuovamente al Senato, dove se esce, esce come legge dello Stato. Quindi le perdite fiscali che si verificheranno nel 2017 per effetto della deduzione totale delle giacenze di magazzino imposta, attenzione al nuovo regime, non potranno essere utilizzate negli anni successivi per ridurre i redditi anche non di impresa, dell'imprenditore o del socio, perché parliamo di piccolissimi. Esatto. Ricordiamo che le microimprese sono state illuse per un anno intero, appunto, lasciando intendere un'imminente soluzione. Col senno di poi, perché siamo a fine anno, avrebbero tentato di limitare i danni rassegnandosi a ulteriori tasse occulte, come maggiori costi per la tenuta della contabilità ordinaria. Sempre lì andiamo, carissimi. Ci avete creduto? Avete creduto all'IRI? Avete creduto che questi costi li mettevate in deducibilità come vi aveva promesso lo Stato? Niente da fare. Questo è il tram tram dell'ordinamento fiscale per la microimpresa italiana. Ma tu, quando poi il cliente ti dice: caro Ragiolas, ma lei mi aveva detto che arrivava questa roba, perché non arriva? Tu cosa gli rispondi? Guarda, io rispondo a quello che purtroppo ci sentiamo di dire, ci sentiamo un po' dei fattucchieri, Oscar, perché noi facciamo le previsioni cercando veramente di spaccare i capelli 4, ma questo discorso della retroattività, retroattività per loro, è una asimmetria normativa che sfrutta l'asimmetria informativa, perché spuntano come funghi l'enorme interpretazione autentica infilate in ogni lago e in ogni luogo del contribuente. Attenzione, il luogo del contribuente luogo in cui vengono infilate, però l'interpretazione autentica è sempre a vantaggio dello Stato contro il contribuente. Ma limitandoci agli aspetti tributari, cioè è ammesso, certo, come diceva prelegge, evitiamo il fiscalese, aggirano l'irretroattività dell'articolo appena detto e casi concessi eccezionalmente dallo statuto del contribuente. Cioè, tutti i provvedimenti inizialmente contenuti nel decreto fiscale della legge di bilancio non erano un'interpretazione, alteravano radicalmente, sia per quanto riguarda l'articolo 67, l'articolo bla bla bla, volevano allungare a 10 anni, esatto, la prescrizione delle cartelle esattoriali, equiparandole, esatto, di fatto alle sentenze in giudicato. Esatto. Beh, cioè, lo statuto del contribuente prevede queste disposizioni, non possono avere effetto retroattivo. Su questo ci siamo fatti sentire, però, eh? Su questo ci siamo fatti, sì, sentire all'inizio. Io cominciai a urlare appena noto il testo di questa roba retroattiva di raddoppio dei termini fino a 10 anni, di cose che ne avevano 5. Quindi, però, che vuoi fare, Alessio? Guarda, una possibilità l'abbiamo. Allora, siccome l'inventario delle rimanenze non deve essere redatto in questi casi, l'hanno resuscitato almeno 2 volte. Ad ottobre, quando hanno reso disponibili i primi modelli per la compilazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, gli ISA, e poi a novembre, quando però hanno imposto per un altro anno l'applicazione degli studi di settore. Quindi io dico, visto che ci sono tutti i presupposti, ok, da un punto di vista formale, per il doveroso riporto delle perdite successivi periodi di imposta, auspichiamo fortemente un ravvedimento da parte della Camera, onde, esatto, indurre il Senato, come ho detto, a ripensamento. Speriamo che qualcuno capisca ciò di cui stiamo parlando, però, perché questo sai com'è, io ho sempre i miei dubbi, però siccome ci sono i presupposti formati, e allora, però non ci sono i presupposti per dire non ve la facciamo la deduzione. Però comunque, l'ultima cosa e poi lascio a cose più dette. È stato bocciato questo emendamento pro contribuente, ma ovviamente ne viene approvato uno contro. Quindi spunta una nuova sanzione IVA. Questa fa un po' ridere, perché in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore, attenzione, a quella effettiva, che sia stata erroneamente assolta dal cliente prestatore, il cessionario, il committente, è punito con una sanzione amministrativa tra 250 e 10.000 euro. Oh. È una disposizione non sostitutiva, ma di affiancamento alle sanzioni già esistenti. Oh. Quindi contraria sicuramente alla creazione di un sistema conforme al principio di proporzionalità. Caro mio, è una bella sanzione in più. Ma che si figura? Che vuoi? Ce ne sono poche. Ma scusa, dicono da anni che l'ordinamento deve essere volto a punire in maniera più mite le irregolarità che non incidono sull'assolvimento dell'imposta. Ma cosa? Quando? Ma tu credi a quello che dicono? No, ma io lo devo. Cioè, il problema è che ci abbiamo di illusioni. Il decreto legislativo di riforma delle sanzioni tributarie e non penali, che riguarda tutti, non solo chi ha partita IVA, perché riguarda imposte dirette, sembra di cose, compie 20 anni tra 2 giorni. Oh. Ed è antecedente di 3 anni rispetto allo statuto del contribuente. L'imperfettazione, questo termine tuo è troppo bello, degli ultimi 20 anni rende improcrastinabile anche una riforma del sistema sanzionatorio. Grande, poi, abbiamo materia per le transizioni dei prossimi 20 anni, Alessio. Ma una filosofia di complesso. Ma poi dimentichiamoci il processo tributario che deve garantire imparzialità. Te l'ho detto, non anneghiamo i nostri ascoltatori. Intanto abbiamo dato due begli esempi questa settimana di altre botte. Stiamo parlando una platea che comunque di 2.400.000 di microimprenditori italiani. Ci avevate creduto? Vi siete sbagliati? Ricordate che era il giorno dell'urna. Torniamo tra poco. Il vostro compito è della belva. Eccoci qua. Mario, ci sei ancora? Sei sopravvissuto a questi dettagli? Sì, assolutamente. Del fisco. Sono qua appollaiato. Perché diciamo. Le rasoiate di Jolas ogni settimana sono un calter. Naturalmente, io lo so, alcuni ascoltatori dicono, però insomma si capisce poco. Però è anche vero che il tentativo di documentare di settimana in settimana, come dico io, l'iperfetazione delle norme contrarie al contribuente nei momenti in cui l'iter di approvazione delle norme consente ai tecnici del ministero di metterci le cose pro domo loro, dovrebbe essere una delle attività preminenti in cui si fa informazione. Invece qui tutti riempiono pagine su come i testi sono all'origine, su come sono alla fine, cioè quelli che poi disciplinano gli obblighi, non se ne occupa più nessuno. Comunque devo dire che qualche ascoltatore ci osserva che il nostro ospite ha un leggero accento sardo. No, è proprio leggerissimo. Se volete, vi facciamo ascoltare le imitazioni di Mario, che sono ancora più divertenti. No, va bene. Allora, sentiamo qualche ascoltatore prima di andare al tema con i nostri ospiti sugli stati generali dell'alternanza scuola-lavoro che è in corso oggi a Roma. Però sentiamo Giuseppe da Roma, che credo che ci chiami per i temi che abbiamo toccato con Diego Piacentini. Giuseppe, prego. Buongiorno. Dunque, c'è un po' di eco perché secondo me aveva il volume della radio elevato ed è caduta la radio. Proviamo un secondo a risentirlo. Nel frattempo, credo invece su un tema bancario, se non capisco male, Mario da Milano. Mario, c'è? Pronto? Eccoci Mario, dica. No, dicevo, parte si sta mettendo l'attenzione sulle due venete del nord Italia, no? Non so quante sono le azioni in Italia che sono state vendute, ma credo che quelle delle Venete ne siano minima parte. Ci sono molte altre banche che hanno fatto cassa, e adesso non so se problemi per la BCE, per la crisi del 2008 in America, e quindi avevano previsto qualcosa, che secondo me alcune persone che avevano contratto mutui erano stati consigliati di acquistare azioni. Le famose vendite e baciate. Non soltanto le Venete, sono anche in tutta l'Italia, dal sud al nord, e si sta ponendo attenzione, e non possono fare nulla queste persone. Non possono fare nulla, sì, hanno accettato, però che non possano fare nulla se hanno insomma prove che documentano il fatto che il funzionario dirigente, insomma, il front bench di banca gli abbia detto: beh, se vuoi questo credito per questo mutuo, se vuoi questo credito per il consumo, sì, te lo concediamo, però una parte di questo ce lo riprendiamo attraverso l'acquisto di titoli da noi emessi. Beh, è sempre in tempo però per denunciarla questa cosa, ripeto, cioè non pensiamo che sia l'unica maniera possibile sia quella di soggiacere tacendo, perché così non lo spezziamo mai. Lei ha perfettamente ragione però nel dire che questa prassi è stata molto diffusa, e devo dire che se c'è una cosa che mi ha colpito nel dedicare molte ore alle audizioni, che hanno avuto dei passaggi però, cari compari, molto molto molto interessanti, devo dire. Barbagallo per esempio, adesso Mario non so come la pensi tu, se hai dedicato tempo, però Barbagallo, che non si è sottratto ad audizioni massacranti di ore e ore e ore, Beh, ha lottato come un leone, eh. Devo dire, io conoscevo il Barbagallo che nella comunicazione pubblica delle elezioni parlamentari mi aveva lasciato nel novembre del 2015 molto perplesso, a dire la verità, e nella maniera in cui aveva anche ricostruito la battaglia di cui non sapevamo nulla fino a quel momento della Banca d'Italia nel processo di definizione della BRRD durante il 2013, perché non ne abbiamo saputo nulla, altro aspetto che nella commissione parlamentare sembra del tutto dimenticato. Però la cosa che mi ha colpito in tutte queste audizioni, per esempio, è che il concentrarsi, come era inevitabile, su casi specifici, quindi le Venete, Etruria, MPS che comincia una storia precedente 2008, e MPS noi abbiamo imparato tantissime cose dalla commissione, certo, che non sapevamo, certo, prima, perché tutta la storia ufficiale della Banca d'Italia è stata rivoltata come un calzino e non regge più, perché dal Fresh ad Alexandria a Santorini abbiamo l'acquisizione del fatto che la Banca d'Italia sapeva, per essere chiari. In tutto questo, uno degli aspetti non toccati sono proprio quelli generali di sistema, come quello che il nostro ascoltatore ha richiamato, cioè gli obblighi aggirati sulle missioni, le obbligazioni subordinate dall'intero sistema e la genericità e la generalità, perdonatemi, delle baciate. Ma io non so, ma Mario, tu che impressione, questa commissione ne è valsa la pena o no, secondo te? Io il commento su questa commissione, su come sta involvendo, l'ho fatto a inizio trasmissione parlando del ventilatore, per cui è inutile. Sì, sicuramente Barbagallo è stato estremamente puntiglioso, ha fatto una vera maratona di deposizioni in nome e per conto dell'istituzione che rappresenta. Io umilmente, per quello che può valere la mia inutile opinione, credo che il sistema reggesse se stesso e abbia continuato a reggere se stesso a tutti i livelli, la politica, la Banca d'Italia, quindi la vigilanza della Banca d'Italia. Ad un certo punto hanno cercato di tenere in piedi, con la moral suasion e con le tirate di orecchie, delle banche locali che nella stragrande maggioranza dei casi erano sgovernate. Basta guardare la composizione dei CDA di queste banche per capire che qui non c'erano dei tecnici o delle persone, come dire, competenti nella materia dell'erogazione del credito. C'erano dei club, c'erano dei circoli che cercavano di farsi gli amabili affari loro. Quando poi il sistema è finito in stallo e ha finito la benzina per noti eventi esterni, quindi il cambiamento dell'habitat comunitario alle norme europee, sono iniziati i casini, sono iniziati i tentativi di puntellarlo, di dar la colpa allo straniero, sono iniziati gli editorialisti di sistema, gli scrittori di libri, diciamo, che stanno diventando best seller, eccetera. E dopodché quelli che parlano del sistema, cigno nero e del cavaliere bianco, ho capito. Sì, esatto, quelli che plagiano graficamente i libri di Taleb. E dopodiché il sistema è imploso e lì è iniziato il tutti contro tutti, il puntare il dito, il finger pointing. Sono molto d'accordo con te, c'è una responsabilità collettiva che non si riduce al caso Boschi e non si riduce alla sistema. Cosa. Bravo. Sono molto, molto, molto, molto d'accordo con te. E su quello che speriamo ci sia una lezione finale, però io ne dubito, ma però noi dobbiamo produrci, fare nel nostro mestiere, ciascuno il suo, voi siete esperti competenti, io sono giornalista in brattacarta, ma bisogna battersi per questo, perché non sia avvenuto in vano, perché se tutto resta come prima, come l'area è molto elevata nel nostro paese, beh, allora a quel punto, mio Dio, ci candidiamo a ripetere come sempre in farsa peggiore ogni volta i problemi. Ma andiamo agli stati generali dell'alternanza scuola-lavoro, oggi i lavori aperti dal ministro Fedeli, intervengono sindacalisti, imprenditori, portavoce del forum del terzo settore, le regioni, insomma ci sono tutti per fare riflessione su un punto che a noi sta molto a cuore. Noi siamo per l'istruzione professionalizzante, noi siamo per potenziare l'orientamento che il sistema della formazione pubblica non offre sufficientemente agli studenti e alle famiglie, per fare delle scelte consapevoli più professionalizzate. Quindi, siccome non ci è sfuggito nei mesi che la reazione al raddoppio del monte ore, all'alternanza scuola-lavoro, ha portato in molti casi all'attenzione all'informazione, casi in cui era fatta coi piedi, erano occupazioni quasi succedanee a bisogni primari delle imprese, ma con quantità di formazione e orientamento vero pari a zero, l'occasione è ghiotta per noi per sentire alcune delle voci che oggi si confrontano appunto a questi stati generali. E cominciamo con Anna Benvenuti. Anna Benvenuti, che è il referente per le scuole FAS, cioè stiamo parlando di un pezzo delle scuole paritarie italiane. Buongiorno e grazie di essere con noi, Anna. Buongiorno. Allora, buongiorno, l'opinione che voi esprimete in questo vasto confronto è, detta in estrema sintesi, bene un passo avanti oppure B, si poteva far meglio, in assenza del far meglio rischia di essere un boomerang, come nell'informazione generalista è un po' sembrata negli ultimi mesi questa cosa dell'alternanza scuola-lavoro. Anna. Allora, per quanto riguarda la nostra esperienza diretta, è sempre stata affrontata l'alternanza come qualcosa di molto positivo. Abbiamo iniziato a lavorare all'alternanza in anticipo, quindi già 4 anni fa noi abbiamo proposto alla nostra scuola comunque un progetto per cominciare a introdurre il mondo del lavoro, la professionalizzazione all'interno appunto del curriculum didattico. Appena è partito l'obbligo dell'alternanza, noi ci siamo proprio rimboccati le maniche. Secondo me la cosa fondamentale che comunque il Ministero ha subito indicato è che l'alternanza deve essere calata in modo integrato nel curriculum didattico di una scuola, non può essere una sovrapposizione. E in questo forse l'unico difetto è che spesso le scuole non sono preparate per poterlo realizzare. No, ma Anna, noi abbiamo fatto le nostre trasmissioni più volte, perché diciamo, come Radio Sole 24, su questo siamo nella nostra programmazione, seguiamo spessissimo l'avanzamento e l'attuazione di questa cosa. Per esempio, i rappresentanti dei dirigenti scolastici, Anna, ci hanno innumerevoli volte rappresentato il fatto, dice, noi siamo oramai oberati da oneri amministrativi, abbiamo le responsabilità sempre più elevate, io sono responsabile anche del potenziamento dell'offerta della nuova scuola, non so più dove sbattere la testa. È ovvio che se mi si chiede anche la professionalità specifica per valutare il mix da imprese da coinvolgere nelle specializzazioni territoriali del dove insiste la mia scuola, il mio bacino d'utenza, io questa competenza non so, ce la potrei avere, ma non c'ho il tempo materiale per acquisirla. Faccio l'esempio concreto, Anna, cioè è un esempio riscontrato da voi oppure no, sti dirigenti scolastici che poi la devono mettere in piedi l'esperienza? Ma diciamo che quello che abbiamo fatto noi è stato duplice, nel senso che da un lato c'è stato proprio il lavoro della scuola, abbiamo istituito un comitato di lavoro proprio per l'alternanza che lavorava dall'interno e quindi preparando tutta la questione del potenziamento teorico, tra virgolette, e dell'orientamento esclusivamente interno alla scuola. L'altro aspetto invece è stato il cercare di contattare direttamente le aziende ed è stato un lavoro appunto che è durato 4 anni in realtà, cioè abbiamo cominciato 4 anni fa a contattare singolarmente le aziende perché diciamo il nostro interesse è quello di mandare in stage i ragazzi però a fine scuola, a fine quindi scuola. Non durante il percorso scolastico. Certo. Durante il percorso scolastico ce ne occupiamo noi, cioè abbiamo provato ad organizzare questo pool di persone che si occupa di mettere a fuoco ma soprattutto di concretizzare quelle che sono indicazioni ministeriali a livello pratico-teorico, ovvero tutta la simulazione d'impresa, che è qualcosa che comunque deve essere fatto sia con una parte lezione frontale che con una parte laboratoriale. I ragazzi si mettono direttamente in gioco per creare un business plan, un business model e poi realizzare un progetto di impresa. Un'altra situazione invece è quella che si verifica a partire dal mese di maggio, in cui noi facciamo una sorta di graduatoria facendo anche dei CV e delle simulazioni di colloquio dei nostri studenti e poi li mandiamo singolarmente in stage presso le aziende per 1 o 2 settimane a partire dalla fine della scuola. È stato però un contatto diretto a uno con le singole realtà aziendali. No, questo è un po' il problema però, che è sempre una negoziazione uno a uno, invece di avere una mappatura chiara delle posizioni, che cambierebbe completamente l'approccio, perché se tutte le volte ci si affida alle conoscenze dirette, torniamo a un capitalismo paternalistico invece che a un modello istituzionale di rapporto fra azienda e scuola. Però io intanto ringrazio Anna Benvenuti e il suo mondo che organizza queste robe, perché poi dall'altra parte Carlo Alberto, adesso che continuiamo, perché abbiamo insieme con noi dopo la vera interruzione adesso Gianmarco Manfreda che è lì per rappresentare, insomma dar voce agli studenti, e Stefano Dionà che invece è lì ma per portare l'esperienza e la disponibilità della CNA nel mondo artigiano, però c'è anche un problema di tutto ci fa all'altezza da parte delle imprese in questi programmi. Parliamoci chiaro, torniamo tra poco. Assicurati per le feste con RBM Assicurazione Salute. Protegge la salute della tua famiglia. Regala una polizza sanitaria RBM. Fino a Natale sconto del 25% sul totale del premio del primo anno per tutte le polizze online. Info e costi su tuttosalute.it. Prima della sottoscrizione, leggere fascicolo informativo su rbmsalute.it. Non hai un'auto da rottamare, ma hai una suocera? Va bene uguale. con Opel Mokka X a dicembre fino a 5.000 euro di super rottamazione Opel. Per tutti. Porte aperte sabato e domenica. Prendi il SUV, così scappi dalla suocera. Già qui? Ma come hai fatto? Per me ha corso Credit Reforma. Non devi più correre dietro il tuo denaro. Ci pensa Credit Reforma. È il più veloce, sempre. Ah, ma quanto ha vinto? Ha vinto la fiducia di 170.000 clienti, perché il gruppo Credit Reforma è la prima società di recupero crediti del mondo con 550 milioni di euro di fatturato. Un consiglio, verifica la solvibilità del debitore prima di intentare l'azione legale. 800-425-325 o creditreforma.it. Velocità, passione, lavoro di squadra. Per le tue consegne in Italia e in Europa, scegli Pallex. Il network specializzato in trasporto su pallet in 24 o 48 ore. Nessun ostacolo. Parti con Pallex su www.pallex.it. Con Chuck Norris non conviene lo scontro, ma lo sconto sì. Con la fine dell'anno arriva lo sconto finale di Fiat Professional. Fino a 13.000 euro di vantaggi su Ducato, Talento, Doblò, Fiorino e Fullback in pronta consegna. E con il leasing FCA Bank, pianale sagomato e antifurto meccanico del vano di carico by Mopar inclusi nel prezzo. Tantra 95 tasso leasing 403, info su fiatprofessional.it. Affrettati, lo sconto finale scade il 31 dicembre, scoprilo anche sabato 16. Per una volta Chuck concede un lieto fine. Ma ho solo aperto una mail. Un gesto abituale può mettere in ginocchio la tua azienda. Gli attacchi informatici aumentano di ora in ora per numero ed efficacia, minacciando business e continuità operativa. Proteggi il tuo lavoro con Kaspersky Lab, l'azienda di cyber security più premiata al mondo. 400 milioni di utenti hanno già scelto l'affidabilità di Kaspersky. Vai su kaspersky.it o contatta un nostro partner. Ci hanno chiamato pazzi, noi di Costantin. Aprire nuove stazioni di servizio mentre gli altri le chiudono. Una pazzia. Sviluppare la Costantin Card dedicata alle aziende. Una pazzia. Puntare sempre su nuovi servizi offrendoti la qualità al miglior prezzo. Una pazzia. E ora che ogni settimana mettiamo in palio un anno di rifornimento gratis, beh, forse hanno ragione. Siamo proprio pazzi. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Allora, gli stati generali dell'alternanza scuola-lavoro, tema che a noi sta molto a cuore per una formazione professionalizzante che aumenti l'occupabilità dei giovani, non faccia loro credere di poter arrivare a 30 anni e per scoprire solo a loro che o hanno passato anni ad accumulare una formazione che non viene riconosciuta dal mercato del lavoro ed è fonte a quel punto di enormi frustrazioni di fronte ai tipi di contratti e di retribuzione, ma invece orientarsi fin dall'inizio. L'alternanza scuola-lavoro è un pezzo fondamentale di questo e su il primo anno, diciamo così, di sperimentazione su vasta scala, di applicazione anzi del potenziamento del monte ore di Buona Scuola, è in corso questa giornata di riflessione. Abbiamo sentito prima Anna Benvenuti per le scuole FAES, le scuole paritarie. Adesso andiamo con un'altra voce, quella di una rappresentanza, un pezzo della rappresentanza degli studenti. In questo momento stiamo parlando del ospite nostro, il coordinatore nazionale della rete degli studenti medi, Gianmarco Manfreda. Grazie di essere con noi, grazie di quello che fate. Quale sarà lo spirito del suo intervento oggi per fare il punto di quello che a voi risulta nell'attuazione del sistema nazionale? Allora, intanto buongiorno e grazie per l'ospitalità. E in realtà io l'intervento l'abbiamo già fatto perché gli studi generali sono in corso. Dopodiché penso che questo abbiamo sottolineato come questo momento è arrivato in ritardo, in momenti di confronto, discussione, di analisi di un'innovazione. Un cambiamento così importante all'interno del mondo della scuola sarebbe dovuto avvenire prima dell'approvazione della legge 107 e invece ci siamo ritrovati, diciamo, con un ritardo in questo senso qui. Dall'altra abbiamo provato ad approfittare di quello che era un momento dopo le grandi manifestazioni che abbiamo fatto il 13 ottobre e il 17 novembre per provare a mettere un punto su quelle che sono state le tante discussioni, le critiche e le rivendicazioni che hanno portato gli studenti in piazza, la prima della quale l'alternanza deve essere una metodologia didattica alternativa, perché non si può pensare che rimanga la confusione rispetto a cosa possa essere questo, che possa essere alla stregua dell'apprendistato, dello stage o addirittura una politica attiva al lavoro, come viene intesa nella legge di bilancio nel momento in quale vengono legati gli sgravi fiscali all'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Che è metodologia didattica alternativa, vogliamo precisarlo, metodologia didattica, cioè è scuola con altri mezzi in altri contesti. Esatto, ed è anzi fondamentale che la scuola si interroghi come altri strumenti, come non soltanto l'alternato scuola-lavoro, devono mettere in discussione l'attuale modello di fare didattica, perché sappiamo che il mondo intorno a noi è cambiato, si parla di quattro. Però Manfreda, posso dire una cosa? Siccome il giorno delle manifestazioni noi stessi ce ne siamo occupati, appunto il nostro mestiere tutti i giorni seguire quello che viene nel paese, a lei quel giorno, come un po', non glielo devo insegnare, fa rappresentanza, no? È attività pubblica, e i messaggi si ipersemplificano. Quel giorno sembrava che la cifra delle manifestazioni degli studenti che scendevano in piazza era, nella nostra esperienza, è soprattutto una cosa del tutto impropria, ci viene proposta di fare in troppi casi una questione che non è formazione, non è scuola-lavoro, è una specie di prestazione succedanea a esigenze temporanee di bassa qualità delle imprese, per così dire. Oppure è proprio priva di qualunque significato, tanto per assolvere l'attuazione di un dovere imposto dalla riforma 107. E io per primo dicevo, vabbè, ma non sarà proprio così. Però un po' il segnale era quello, o sbaglio, Manfreda? Sì, ed è quello che poi in maniera diffusa avviene, perché le esperienze positive di alternanza ci sono, ma sono poche, non sono capillari quanto dovrebbero. Abbiamo avuto una riforma che è andata avanti senza che ci fossero le condizioni all'interno della società, all'interno del mondo della scuola, all'interno del mondo dell'impresa, perché questo passaggio rivoluzionario potesse essere avviato in maniera positiva. Non abbiamo un mondo del lavoro che è famoso per aver messo al centro la formazione, la ricerca, l'innovazione all'interno delle... In questo i dati ne danno ragione, questa non è ideologia, lo dico per chi è a casa, no, io sono per l'impresa e il mercato, però è quello che diceva Freda, è vero, comprovato dai fatti, e purtroppo poi si paga in termini di produttività. Vediamo che l'unico, quando si vuole parlare di un'esperienza positiva di sistema duale, si va sempre al solito e unico esempio, che è la Ducati. Però infatti la Ducati ha avuto questa innovazione, questa capacità di mettere al centro la formazione nel proprio fare impresa quando è entrata all'interno del gruppo Volkswagen. Esatto, perché la cultura tedesca è proprio così, è proprio della Ducati. Dovremmo averne migliaia di casi come la Ducati, un'estensione a catena, per così dire. Stefano Di Niola, o Di Niola, spero di non aver sbagliato troppo nella prima edizione del suo cognome. Qui stiamo parlando della persona che ha la delega all'istruzione della CNA, quindi mondo artigiano, ed è un mondo interessatissimo in realtà a questo tipo di didattica alternativa, perché l'orientamento poi in vista di questo è fondamentale. Allora, voi invece che voce portate oggi agli Stati Generali, Di Niola? Salve, buongiorno, innanzitutto grazie dell'invito. Portiamo una voce, la voce ovviamente che è quella basata sulla nostra esperienza, la conoscenza del nostro mondo, che è fatto, come ricordava lei, di imprese artigiane e di piccole imprese. L'ossatura del paese, me lo lasci dire, insomma, nel nostro paese è un problema enorme che lei conosce bene, che conosciamo tutti, però va ripetuto, che è un problema delle competenze. Il problema delle competenze che va visto sia dal lato della domanda di competenze da parte delle imprese, che a volte non riesce a retribuirle neanche in maniera adeguata, ma anche dal punto di vista delle offerte. Quindi abbiamo sempre valutato il tema dell'alternanza scuola-lavoro, che non nasce con la buona scuola, ma nasce già da prima, ma la buona scuola ha diciamo così la spinta propulsiva di una obbligatorietà, quindi ovviamente assume tutt'altro connotato. Abbiamo riconosciuto in questo meccanismo sicuramente degli elementi molto positivi negli obiettivi generali, perché comunque ha stimolato un grandissimo dibattito pubblico sulla necessità di inserire questi collegamenti tra mondo del lavoro e mondo dell'istruzione, e in più anche dal punto di vista sempre degli obiettivi generali un altro elemento di merito, a mio modo di vedere, e cioè che sono stati inseriti dei fortissimi stimoli ai sistemi di istruzione, ma anche a quelli economico-produttivi, per aprirsi reciprocamente. Oggi il mondo lo sappiamo, insomma, il mondo dell'istruzione è troppo ancora scollegato rispetto a quello che succede nel mondo reale, ma altrettanto si può dire però del mondo reale, dell'economia produttiva, del presente nelle piccole imprese, nelle imprese artigiane, che a volte non riesce a cogliere neanche tutte quante le opportunità. Quindi la vostra è un approccio positivo e costruttivo. Approccio positivo e costruttivo, ma ne riconosciamo anche dei forti limiti. Io spero solo che si abbia la forza continuativa, perché poi è un problema anche di governance al ministero, dipende tutto dalla qualità del direttore generale che se ne occuperà. Io mi dispiace voler sembrare un minimalista, ma poi alla fine scopro che in Italia questo è la cosa di lungo periodo, siccome non abbiamo processi di valutazione ex post delle riforme, altro grave problema italiano. Bisogna valutarle ex ante e poi ex post, dipende tutto sulle gambe, visto che poi ci sono le elezioni, le campagne elettorali, le gambe amministrative apicali su cui vanno avanti queste cose. Qui un processo di revisione ex post, lo dico a tutti e tre i nostri ospiti, a Manfreda, Anna Benvenuti, a Stefano Di Nino, un progetto continuativo di verifica è la maniera migliore per imparare le azioni, metterle al sistema, condividerle con gli attori e procedere a eliminare poi con segnali e impulsi alla dirigenza scolastica locale le esperienze negative, altrimenti l'abbandono all'attuazione locale periferica senza direttive che derivino da una valutazione ex post continuativa limita tutto alle eccezioni territoriali di efficienza, alle rappresentanze dalle imprese a quelle dei dirigenti scolastici, a episodicità. Ecco, questa è una cosa che si costruisce nel tempo, questa è la mia certezza. Intanto grazie ai nostri ospiti e buona prosecuzione di lavori. E noi adesso, dopo l'interruzione, arriva Papà Natale! Sì, che bello! Iberdrola è arrivata in Italia. È leader mondiale nella produzione di energia rinnovabile ed è qui per te e per la tua voglia di verde, perché porterà a casa tua risparmio ed energia verde garantita al 100%. Vieni a conoscere tutte le offerte e i servizi su iberdrola.it oppure chiama all'800 690 908. Scoprirai che l'energia verde fa bene anche alla bolletta. Risparmia ora con Iberdrola. Iberdrola, tutta l'energia verde che vuoi. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Io sono un cittadino che pago le tasse. Lo Stato mi deve proteggere. Voglio i carabinieri, la fanteria, i bersaglieri. Andiamo, non esageriamo, signor Bonocore. E non alziamo la voce. No! Guardate, è imperituro l'eroe per noi poveri tassati, scortesi nel senso che osiamo pensare che avremo dei diritti nei confronti dello Stato. Com'è che dice il nostro ascoltatore con la mail che mi leggevi prima, che chi viene colto? Com'è? Chi viene colto in fragranza di reato deve rinunciare alla privacy unilateralmente, almeno si mette praticamente a 90 gradi e cioè, secondo voi, cioè uno arriva all'agenzia delle entrate e lui deve, per principio, deve sbracare tutto. Ma capite che sono gli effetti? Vi hanno educato alla sudditanza e voi vi aderite felici. Capite? Voi volete regalare ai vostri figli le catene dello schiavo, dicendo guarda come tintinnano amabilmente e armoniosamente, figlio mio. Ma possibile mai? Ma non la introiettate questa cosa, che l'effetto continuo della campagna quotidiana della Stato assetato è quello di ridurvi a gente che ci mandate dei messaggi in cui inneggiate al fatto di essere spogliati dei vostri diritti. Roba da pazzi. Allora, Papà Natale Renato, come stai Papà Natale? Sono pronte le renne per distribuire i pacchi di carbone? Ciao zio, come stai? Zio Natale, come stai? Noi oggi abbiamo dato i pacchi di carbone alla Consob, a MPS, abbiamo dato i pacchi di carbone alla Guardia di Finanza. Ho ascoltati fino ad un certo punto, però poi sono in giro per regali. Però quindi il problema è come in giro per regali? Ma Babbo Natale, ovvio, è il suo mestiere, caro Alberto. Ah, consegnare i regali. Deve finire l'apprestamento. Babbo Natale li deve anche prendere. Guarda che, ma tu non lo sai, guarda, e lui... Papà Natale, guarda che dal fisco italiano è costretto, c'ha il reverse charge, non so. Ah, ho capito. È ovvio, c'ha lo split payment. Tieni conto che faccio tutto estero su estero per il Natale. Allora, su per questo, non pagare l'IVA. Caro Renato, senti, però questa una settimana... Una cosa volevo fare, prima di tutto anch'io, da controparte. Sì. Unirmi a quello che tu hai detto inizio trasmissione e mandare un abbraccio a Bentivoglio, bravissimo, perché da controparte io dico che abbiamo bisogno di persone come lui. Te lo dico da metalmeccanico, sapendo benissimo che lui è la nostra controparte e sta facendo un lavoro egregio per cercare di spostare quello che è il contratto su un contratto più moderno. Esatto. E quindi spiace che poi sia sottoposta a dei rischi per questo, cioè per cercare di modernizzare un paese che ogni giorno passa più con gli occhi all'Ottocento invece di passare al 2000. Marco, ti vogliamo bene, ma al di là di questo, tu questa settimana hai ottenuto incredibilmente una soddisfazione dal punto di vista del rapporto con il fisco. Sì, beh, poi io non uso la radio per le questioni personali, perché mi sembra molto... Però diciamo che questa settimana sono andato, cosa che mai avrei immaginato nella mia vita, al TAR, e abbiamo vinto, quindi è stata una buona settimana, almeno per quello, insomma. Perché anche tu rischiavi di essere sospeso nelle tue... Lì ero... Allora, noi effettivamente avevamo fatto un errore per delle cose doganali, e non ho mai detto che non l'abbiamo fatto. Era abbastanza irrilevante sull'importo totale delle cose. Avevamo già avuto due o tre controlli che erano andati bene, quindi noi eravamo tranquilli di essere dalla parte della ragione. Poi sono arrivati, abbiamo fatto un po' di contenzioso, mai avrei immaginato di dovermi appellare al TAR, l'abbiamo fatto, abbiamo vinto, tutto bene, insomma. Ecco, notate, scusate, vi faccio notare, cari ascoltatori, il tono di dimesso compiacimento dell'imprenditore, che quando raramente capita di avere ragione sul fisco, però non esulta in maniera scomposta, perché sa che potrebbe attirarsi delle ulteriori folgori, e quindi lo fa quasi chiedendo scusa, col cappello in mano all'amministrazione tributaria. Io non volevo vincere, io comunque l'avevo commesso. No, io volevo ma il giudice vincere. Mi ha dato ragione, è il mio avvocato che ha detto che andiamo a fare il ricorso, sarei sempre pronto. No, il tono era un po' questo, il tono è quello, perché poi quando fai l'imprenditore fare i toni troppo da vincitore non conviene neanche nel momento in cui sei bravo a fare il fatturato e tutte queste cose qua, perché noi, vivendo di mercato, abbiamo questo piccolo problema che devi sempre stare allerta, e quindi se stai lì troppo a festeggiare, poi se tu sei lì fermo a festeggiare c'è un altro sulla destra che ti sorpassa e poi non lo vedi più e dici ma mi sembrava fosse passato qualcuno. Questo è il problema, non è tanto una questione di essere dimessi, perché poi ti dico, noi sapevamo di essere abbastanza dalla parte della ragione, quindi non avevamo grossi dubbi su come sarebbe andata, anche se sai bene che quando vai in tribunale non sai mai come finisce, insomma. Esattamente. Senti, invece, non so se io purtroppo mi sono perso un pezzo dell'intervista a Piacentini, e volevo chiedergli se gli avete detto che sia effettiva semplificazione e non complicazione, perché qui sta diventando un po' complicazione, perché adesso fanno fare a noi commercialisti il lavoro che doveva fare l'amministrazione, quindi vi arriva tutto in elettronico, tutto in automatico, viene inserito tutto in elettronico e tutto in automatico, e nel frattempo non mi sembra di aver visto grandi ristrutturazioni o cose di questo genere. Nel dovere del commercialista è oramai la parte di aggiornamento dei software che lo Stato individua obbligatoriamente e che possono cambiare magari poi la protrazione delle precedenti scadenze, è diventata una voce che sembra che il carico di lavoro per gli aggiornamenti software imposti dalla pubblicazione come onere, in realtà, come dire, surrettizio, sta veramente saturando gli uffici e gli studi di professionisti. No, ma allora, da un lato è un po' colpa, diciamo, nostra, nel senso che probabilmente molte aziende non erano preparate al cambio digitale, non sono preparate al cambio digitale e quindi non sono attrezzate internamente per poter supportare tutte queste cose. Però va detto che purtroppo bisognerebbe avere un po' più di tempo per pianificare, perché negli ultimi tempi hanno fatto veramente delle cose assolutamente non accettabili dal punto di vista di quelli che sono i flussi e le necessità di commercialisti e aziende, perché se poi ti cambiano le cose all'ultimo momento e in tre giorni devi preparare tutto, magari con dei dati che non è detto che tu abbia, diventa difficile, insomma. Questa è la parte negativa della digitalizzazione della pubblica amministrazione, se non fatta in modo un po' più pianificato e corretto nei confronti delle aziende. Insomma. In compenso la pubblica amministrazione non molla un dato in maniera strutturata, in maniera leggibile, e quindi non ci restituisce questo beneficio, perché se capissimo meglio a questi dati per cosa vengono utilizzati, forse avremmo anche un incentivo. Parlava prima Piacentini di questo onnaggio, e invece questo incentivo, mi spiace, non c'è. C'è solo adempimento forzoso. Allora, no all'adempimento forzoso e Papà Natale Cifarelli, mi raccomando, dai tutto il carbone necessario, fregatene delle missioni. Con Calenda, bravissimo, grazie a Mario Seminerio che anche lui di carbone ne manda attraverso il suo blog.